come ti chiami? Chiamo Dylan. Dylan? Io lo conosco. Oh. Andavamo al piazzale insieme. Sì, mi ricordo di te. Abiti qui, Dylan? In zona? Sì, sì. Che domanda gli possiamo fare? Che rumore sente quando apre la finestra di casa? Ma io, per essere sincero, non sento nulla. Perché? Si sente qualcosa per caso? Una zona abbastanza... si può dire... una zona abbastanza tranquilla per quello, però non esageratamente, non tipo un clima di montagna, però neanche una città, come dire... affollata. Esatto. Quindi stai bene, senza che stavi bene? Ah sì, esatto, si sta bene comunque qui rispetto a altre zone. Grazie mille, Dino. Bene, no? Buona giornata. Grazie.